CRM. In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Radio Service. Buonasera. Che caldo, ragazzi, veramente. Grazie, grazie, troppo gentili. Bene, inizia questa nuova avventura estiva su CRMP Radio con Radio Service, questo programma che sarà un po' il vostro cicerone per questo agosto 2013, un programma che vi darà informazione sulle informazioni, scusate il gioco di parole, gli eventi sportivi, le dritte per lo shopping, cosa bolle in pentola, nel senso che insomma parleremo anche di cibo, perché d'estate insomma sai, con relax, il mare viene anche una certa fame, quindi parleremo anche di cucina e poi ovviamente non potranno mancare tutti gli eventi, gli spettacoli, gli appuntamenti più interessanti che la nostra bella cittadina offre insomma a tutti i residenti, ma ovviamente a tutti i turisti, tutte le persone che ogni anno numerose giungono nelle nostre spiagge, nelle nostre stradine sempre molto trafficate. E quindi inizia questa avventura per tutto il mese, ogni lunedì, da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Filippo Brancato in compagnia del buon Max Lanotte. Buonasera Max, in regia, ci faremo compagnia in questi caldi e afosi pomeriggi del mese di agosto, vi faremo compagnia con la nostra musica, e poi ci saranno ovviamente dei collegamenti telefonici ogni pomeriggio con gli amici che ci parleranno dei loro prodotti, delle dritte, ci daranno insomma dei consigli su come vivere al meglio questa estate. E interviste telefoniche, insomma davvero un bel po' di materiale. Chiaramente voi siete sempre nel nostro cuore, potrete interagire con noi sui nostri vari siti internet, crmpradio.it, la nostra pagina personale di Facebook che è Radio Service CRM, e ovviamente interagire via internet senza spendere una lira, ormai insomma grazie alla tecnologia non c'è più bisogno di inviare sms, fare telefonate. Andate sul sito crmpradio.it, dal quale tra l'altro potete anche seguirci in audio video streaming, e da lì poi mandare la vostra segnalazione se avete piacere di ascoltare una canzone, semplicemente salutare qualcuno o fare un commento riguardo quelle che sono le informazioni, le notizie di cui parleremo. Chiaramente protagonista di ogni nostro appuntamento sarà la musica, e per questo motivo iniziamo subito con la prima canzone di oggi. Parliamo di una canzone abbastanza fresca, parliamo di Like Lee con I Follow Rivers. Vi terremo chiaramente al corrente di tutti gli eventi che poi vedranno chiaramente anche me e Max in giro quest'estate, perché non è che stiamo soltanto qua alla radio insomma. Bene, buon pomeriggio, non usate troppo il condizionatore altrimenti poi viene il mal di gola. Questa è CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Inizia la prima puntata di Radio Service. Allacciate le cinture, benvenuti, buone vacanze, buona estate a tutti quanti. Like Lee, I Follow Rivers. I follow Radio Service, tutte le dritte per vivere al meglio la tua estate. L'agenda quotidiana degli spettacoli serali, l'informazione locale, le iniziative turistiche e sportive, dove mangiar bene e dove tirar tardi. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 18 su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. We're up all night to get lucky. Sul divano collassato, frate, passo solo dalla Champions League al campionato. Io crossami la palla che rovescio, intorno a me c'è tutta la curva della PlayStation. Aspirano, poi fanno cori e gesti tipo le oh oh oh. Siamo tutti fuori messi tipo le oh oh oh. Sono un goleador, zio, il boss del turnover, come a De Bayor, prima punta, numero 9. Dribblo finché scrocchiano le dita, frate, tanto qui c'è birra e guida. L'antidolorifico per la partita, calcio champagne, smarcato Neymar, pato gol profumato, zio, Paco Rabanne. Compro e vendo giocatori da Nintendo, vecchia scuola, sono re del mercato come Mino Raiola. Sono pronto al match, frate, io le dita coi tacchetti, tu dammi solo una torcia, un amore. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh, oh, oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Passo il tempo sul microfono e resto all'Xbox. Faccio yes, yes, yo, yes, yes, bro. La gila pula e nel posto senti come suona. Dedicato a chi ha il diploma eppure non lavora. Dedicato ai miei fratelli con lavori strani, tipo che iniziano la sera fino all'indomani. Per comprare nuove Nike e giochi della Play, salotto 5 metri quadri, siamo in 26. Del divano sto al caldo, segno con Cristiano Ronaldo. Su sta poltrona sto talmente tanto che lascio il segno delle chiappe quando mi alzo. Slego il polso, occhio rosso, passo il basso, una sberla, due tiri sull'erba e penso di essere nella leggenda di Zelda. Baby rolla per me, lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh, oh, oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Scusa baby, adesso no, questa notte faccio sport e giuro che ti chiamerò, ma stasera proprio no. Ora non ho tempo per parlare, Jake e Gue devo dribblare sulla base di Don John. Dal divano vado in gol. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Club Doggo, fumo un po'. Chi non ha giocato a PES, insomma, PlayStation. Ecco, c'è da dire effettivamente che forse, no, i giochi, queste console, sia la Wii, la PlayStation e così via, sono delle console che sono degli intrattenimenti, diciamo, che si utilizzano per lo più d'inverno, che poi d'estate, insomma, si sta fuori, si va al mare, è più piacevole piuttosto che stare davanti al televisore. Comunque, insomma, senza dubbio sono delle, come dire, dei passatempi molto di moda, soprattutto fra i ragazzini. Comunque, parliamo adesso di notizie. Riguardo l'informazione locale, ci sono alcune notizie, insomma, che ci hanno come dire, attratto in modo particolare. Una arriva direttamente da Ragusa, pensate un po'. Parliamo di una piazza, scusate, di una bara in giardino. Dite, come una bara in giardino? Cioè, potevamo sentirla di tutti i tipi, però tre. In realtà è accaduto a Santa Croce Camerina, praticamente, nel Ragusano, l'iniziativa di un pensionato che praticamente si era portata avanti con i tempi, si era comprato una bella bara e siccome non sapeva insomma cosa farne, ha deciso bene di piazzarla in giardino. Ho detto così, intanto la conservo quando potrà tornarmi utile, e allo stesso tempo insomma potrebbe essere da avvertimento per i passanti, per non entrare nella mia proprietà. Pensate un po' che cose strane. Comunque, poi invece un'altra notizia un po' più seria, dobbiamo dire la verità, parliamo purtroppo di sbarchi. Ancora purtroppo, ripeto, oltre 400 migranti soccorsi nella notte dalla Guardia Costiera nel canale di Sicilia. C'è da chiedersi insomma come mai soltanto noi italiani siamo attenti a questo grandissimo problema. Anche l'isola di Malta insomma fa finta di niente, in generale l'Europa fa finta di non esistere di fronte a queste tragedie, e soltanto noi italiani alla fine ne paghiamo le conseguenze. Comunque continuano gli sbarchi, tantissimi migranti che inevitabilmente ci troveremo noi a sostenere per insomma i prossimi mesi. Continueremo a parlare di notizie subito dopo la prossima canzone. Arriva una bella collaborazione fra Maroon 5 e Wiz Khalifa, si intitola Payphone. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that. Why you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing? Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switch the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you could tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm out of baseball, trying to Payphone. Davvero molto bella questa collaborazione con Wiz Khalifa. Hanno venduto davvero tantissime copie con questa canzone. Saranno contenti, insomma, i Maroon 5. Allora, adesso invece parliamo di un artista italiano che ha riscosso un grandissimo successo a Cuba. Tra l'altro amico di lui, lo vogliamo dire. Amico di Max. Amico suo. insomma, parliamo di atmosfere cubane, tanto per restare in temperatura. Bella versione, bella cover di Guantanamera, lui è Zucchero. Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma. Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma. E prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Rosa bianca, in giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Chiaro, uno di un cremisi acceso, un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Protagonista in Piazza del Duomo a Milano, proprio prima, insomma, dell'ingresso dell'estate ufficialmente, con questa ospitata per il concerto di Radio Italia, insomma, vero, veramente un grandissimo sex appeal, Zucchi, devo dire la vita, ecco, da uomo, devo dire, saranno i soldi, però, insomma, devo dire la verità, poi, insomma, si ama circondare sempre di bellissime donne, questa è anche una cosa furba, eh? Arriva nel Simple Plan. Summer Paradise. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you. Baby girl, where real life can wait. It can wait. We're crashing like waves. Yeah. We're playing in the sand. Me and you, girl. Holding your hand. Mexico. Cause I remember every sunset. Well, I remember that. I remember every word you said. And we were never gonna say goodbye. Singing la-da-da-da-da. Tell me how to get back to you. Back to summer paradise with you. Yeah. And I'll be there in a heartbeat. Big time, girl. Someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Bring it back. Radio Service, tutte le dritte per vivere al meglio la tua estate. L'agenda quotidiana degli spettacoli serali, l'informazione locale, le iniziative turistiche e sportive, dove mangiar bene e dove tirar tardi. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 18 su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. We're up all night to get lucky. Sunshine. Vegano non saccio assai, c'ho le tempo e basta. Qui giugano sai, c'ho le tempo e basta. Alwai, e ti umata da una bagnona, da me giusta la giornata. Casape io c'è boggio senza gulla giù imparata. Casevo già su brate mie quando sa sciaccata. E non resta stizzata, mangio gulla le decada. Mi piace in pigiama oppure rubbe già cantata. Mi piace la sensazione dopo una lunga chiacchierata. My sweet little sunshine. E questa qua è la canzone. My sweet reggae sunshine. E quando resti sola è una sola. Lassù ogni tipo di avventura. Puro calo mondo di fronte alla coerenza sen paura. Cigna penna dura, bella sì la luna. Punta quanto dura. You make my heart sing na na na na na na na na na. Baby, I'm a sunshine reggae. Na na na na na na na na na na. Every time you touch me softly, I can sing it like oh oh oh oh oh oh oh oh oh. You got me singing like oh oh oh oh oh oh oh. Baby, you're my sunshine. She hear my voice on the stereo. Turn up the radio, listen to the song and take a look outside the window. She said, big boy, oh, you look so cool. Won't you sing me another reggae song, score on good. She are my best friend I ever, nothing changed but the weather. If it rains, there's no way we're supposed to be together. A little girl, she says she need me so much. I want to give her some love until she can't get enough. Cause I'm addicted to your eyes. Baby, you're my reggae sun shining bright. You're just a little pretty thing in my life. And that's the reason why, yeah. You make my heart sing na na na na na na na na na. Baby, you're my sunshine reggae. Na na na na na na na na na na. Every time you touch me softly, got me singing like oh oh oh oh oh oh oh oh oh. You got me singing like oh oh oh oh oh oh oh. Baby, you're my sunshine reggae. Beta, we took a dengue fare, man, and let them pull with TM. You know that I miss you, baby. I know that you miss me, baby. Sta vita mudo spesso se dierte con me. Beta, no, non posso stare senza le TM. You know that I miss you, baby. I know that you miss me, baby. You make my heart sing na na na na na na na na na na. Baby, I'm a sunshine reggae. Na na na na na na na na na na na. Every time you touch me softly, got me singing like una bella anteprima questo pomeriggio con Bomba Dash Sunshine Reggae. Loro in realtà nascono come Sound System nel 2002, parliamo di una band pugliese che sta avendo un grandissimo successo proprio con questa canzone, che poi in realtà è una cover di qualche anno fa di Sunshine Reggae dei Lady White. Noi adesso forse ho detto una stronzata, però ve la faccio sapere. Parliamo di sport, come anticipato dalla nostra bellissima voce. Ebbene, in realtà non parliamo di calcio, bensì la nostra sigla lo faccia intuire. Parliamo di uno sport, chiamiamo così, in realtà è uno sport evento. Parliamo della famosa Antin a Mare, questo evento sportivo che ha insomma da tantissimi anni, da 231 anni prende piede a Cefalù e parla di tradizione marinaresca. L'Antin a Mare è praticamente una antenna a mare, ovvero un traliccio, diciamo così, un palo steso in orizzontale sulla punta del molo di Cefalù. Su questo palo i ragazzi o comunque i pescatori, famiglie di pescatori si danno battaglia per cercare di staccare dalla punta di questo palo una bandiera con raffigurata nella bandiera l'immagine del Santissimo Salvatore. Un evento seguito ogni anno da tantissime persone che avrà luogo domani pomeriggio alle ore 16, poi in realtà si inizia un po' più tardi, però ci sarà comunque il nostro collega Robby D'Antoni che vi terrà compagnia nell'attesa dell'inizio di questa manifestazione. Favoriti di quest'anno, lo scorso anno ha vinto un ragazzo cefaludese di famiglia storica di Cefalù, parliamo di Nino Papa, ha vinto per la terza volta l'edizione dell'Antin a Mare, lui era sempre stato uno dei favoriti. Quest'anno ci sarà, insomma, bisognerà vedere attentamente perché ci sono degli altri favoriti. Parliamo di Federico Provenza e Domenico Brocato, altri due ragazzi, altri due giovani pescatori, insomma molto in gamba, fisicamente molto preparati. E quindi quest'anno, insomma, staremo a vedere. Appuntamento alle ore 16 di domani sul lungomare di Cefalù al molo per assistere alla 231esima Antin a Mare di Cefalù. Adesso arriva la musica di Jovanotti, non può che essere l'estate, l'argomento di questo pomeriggio. Questo è Radio Service su CRMP Radio con Filippo Brancato e Max Lanotte. Buon ascolto. Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi li archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai, il passato è passato nel bene e nel male. Come un castello di sale costruito sulla riva del mare, niente resta per sempre nel tempo. uguale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento, con le mani ci faccio una vela, aeroplani coi libri di scuola. Finita per ora, inclinato come l'asse terrestre, voglio prendere il sole, è il programma del prossimo trimestre. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Come un'orbita la vita mia gira intorno a un centro d'energia. Sento il tuo respiro che mi solleva, è una vita nuova. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Tutto il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia. Col Max, che del fatto che insomma Jovanotti anche lui insomma ha iniziato come DJ e poi insomma ha avuto un grandissimo successo anche come cantante, anche se insomma diciamo la verità, proprio come cantante non è che sia proprio il massimo. Dal punto di vista insomma dei testi e le canzoni, come autore senza dubbio un grandissimo poeta, diciamo così. Non so se vi ricordate, parlavamo di questo, dell'album La mia moto, quando iniziò, no? Col cappellino, vai. Ha avuto anche una storia con Rosita Celentano, ci fu lì proprio una discussione lunga. Pompei. Tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above.

bellissima Pink, questa era Try, e non so se vi ricordate, insomma, qualche annetto fa, che per lo show, si parlava, insomma, di musica del passato, di grandi successi del passato, e adesso vi faremo sapere, insomma, vi facciamo sapere che più tardi andremo ad ascoltare una bellissima canzone dritta dritta del passato, quando ancora, insomma, si ballava, no? Insomma, si ballava stretti stretti, ci si trovava in discoteca, magari nei magazzini, nelle case degli amici, con i giradischi, con le cassette, si ascoltava la musica, si mettevano le belle canzoni, anche i lenti, cose che purtroppo oggi non si fa più, una cosa che si è persa nelle discoteche, ballare i lenti, secondo me era un ottimo motivo per poter acchiappare, invece non si fa più. Parliamo quindi degli anni 80, Max, siamo negli anni 80, e lei sicuramente è una delle interpreti più conosciute, tant'è che non se ne è sentito più parlare. No, stiamo scherzando. Stiamo parlando di Tracy Spencer, anni in cui c'era anche in Italia, ad esempio, Ivana Spagna. No, vi ricordate Easy Lady e tanti tanti altri autori. Quest'oggi facciamo un bel salto indietro nel tempo. 1986. C'era ancora Super Classifica Show, ve lo ricordate? Con il gattone, anzi la palla da discoteca con gli occhiali, fantastico. E questa, insomma, era una di quelle canzoni che faceva muovere parecchio d'estate. Si titola Run to Me. Thank you. bellissima voce di Tracy Spencer con Run to Me. Adesso vediamo qualche dritta per lo shopping. Le dritte per lo shopping. Oh, bene, anche questo pomeriggio in diretta con CRMP Radio, con Radio Service, siamo in collegamento con una nuova attività, ecco, che ha aperto Cefalù in via Generale Presti Simone numero 3. Parliamo di Io Fumo, siamo in collegamento con Andrea. Andrea, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Oh, allora, carissimo Andrea, intanto benvenuto e ben salito a bordo di Radio Service. Complimenti per il programma. Grazie, carissimo. Tutti questi pomeriggi parleremo con Andrea riguardo un prodotto che in questi ultimi mesi, insomma, sta andando veramente molto forte. Parliamo di sigarette elettroniche, giusto? Perfetto, sigarette elettroniche. Ecco, senti, allora, volevo chiederti intanto di spiegare, se può, insomma, cos'è la sigaretta elettronica per chi ancora non ha, insomma, avuto modo di conoscerla. Benissimo, sintetizzando praticamente tutto il concetto, vi do qualche dritta praticamente sulla sigaretta elettronica. Praticamente la composizione di una sigaretta elettronica principalmente è composta da una batteria e da un atomizzatore o cartomizzatore. Sì. Questo qui ovviamente non entriamo tantissimo nei particolari, neanche per rubarvi tantissimo tempo. È praticamente una batteria composta da, fatta direttamente agli ioni di litio, ha una tensione di 3,7 volt e può essere manuale e automatica. Ha anche, diciamo, un dispositivo per indicare lo status della batteria, per far vedere comunque alle persone se è scarica e quando è scarica per metterla sotto carica. Sì. L'atomizzatore o sempre cartomizzatore invece ha una funzione alla fine di vaporizzazione, diciamo mediante riscaldamento il liquido contenuto nella cartuccia va a creare così il vapore che va a simulare, diciamo, il fumo della sigaretta tradizionale. Sì. Poi alla fine. Senti, scusa, qual è la differenza fra atomizzatore e cartomizzatore? Atomizzatore e cartomizzatore. Praticamente l'atomizzatore ha dei fili, delle filature, praticamente queste filature vanno imbevute con il liquido. Sì. E praticamente il riscaldamento con la batteria mediante la resistenza va a creare, diciamo, il vapore così semplicemente. Okay. Mentre il cartomizzatore, diciamo, all'interno ha solamente una spugna, questa qui verrà tutta imbevuta direttamente, diciamo è due modi di fumare completamente diversi, una un po' più leggera, mentre un'altra una corposità, diciamo, un po' più consistente. Ho capito. A seconda ovviamente della persona, è sempre una cosa soggettiva. Certo, poi mi dicevi anche che dipende da quante sigarette generalmente si fuma durante una giornata, no? Sì, alla fine, ripeto, sempre è una cosa soggettiva, perché ogni individuo può andare a scegliere direttamente il grado di nicotina, quindi da una corposità maggiore via via scendere sempre più in basso fino a eliminare completamente la nicotina. Perfetto. Un'altra dritta comunque per i nostri telespettatori, alla fine i liquidi, molti si chiedono i liquidi se fanno male, cosa contengono, eccetera eccetera. Sì. Praticamente i liquidi delle sigarette elettroniche alla fine sono composte da 5 elementi, da 5 sostanze, sempre sintetizzato dal glicol provinenico, dal vegetale, la nicotina, gli aromi alimentari e l'acqua. Diciamo che di tutte queste sostanze solo la nicotina è quella che fa male ufficialmente. Mm-hmm. Per intenderci, gli altri elementi sono tutti praticamente già usati giornalmente nel campo alimentare. Sì. Per esempio quello cosmetico, anche farmaceutico, tipo merendine, creme per il corpo, medicine. Noi non lo sappiamo, ma purtroppo alla fine sono cose naturali che vanno assimilate giornalmente senza che noi lo sappiamo. Perfetto, quindi senti, ricapitolando in parole povere, no? Sì. Allora, praticamente la sigaretta elettronica è composta da una batteria una durata abbastanza elevata, grazie alla... Sì, a secondo poi la grandezza la si va a scegliere sempre soggettivamente, se la vuole più grande, più corta, più larga, più largo, grande, ce ne sono un'infinità di tipi. Perfetto, quindi una batteria, poi c'è un atomizzatore o cartomizzatore, che è praticamente quell'elemento che trasforma il liquido in vapore. Perfetto. E poi c'è il liquido direttamente che uno andrà a scegliere. Ecco, il liquido che può essere di varie tipologie. Può essere con una certa quantità di nicotina, con meno nicotina, più nicotina. Con e ovviamente a seconda come lo sceglie direttamente la persona, se lo vuole tabaccoso oppure dolce, dolciastro, semi-tabaccoso, semi-secco, aromatico, ecco. Fruttato. C'è un'infinità di scelta. Di scelta, bene. Allora, invitiamo tutti gli amici che volessero provare, affrontare questo nuovo, questa nuova esperienza della sigaretta elettronica, a raggiungere l'amico Andrea in via Generale Presti Simone, numero 3 a Cefalù, per intenderci, vicino a dove sono le bancarelle in questo momento del Santissimo Salvatore, no? Ecco. Oh, potete fare una prova gratuita, giusto Andrea? Sì, benissimo, la prova è sempre gratuita, le persone possono provare gratuitamente. Bene. Ricordiamo allora, soltanto una cosa, che è importantissimo, che la vendita comunque è vietata ai minori di 18 anni. Perfetto. E che i nostri prodotti sono certificati e sicuri secondo le normative internazionali, perciò su questo state tranquilli. Tranquilli, bene. Oh, un'altra cosa, poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento domani. Il prodotto del giorno, cosa ci proponi? Il prodotto del giorno, vi consiglio un aroma subito, così, buttato, il Cuban Supreme. Ah, quello che mi hai fatto provare la scorsa settimana. Buonissimo, giorno, un aroma meraviglioso. Abbinato con quale prodotto, quale sigaretta elettrica? Come sigaretta elettrica vi posso consigliare in questo momento, visto che abbiamo le ultime promozioni, su una F1. La F1 che in questo momento è a 23 euro. Abbiamo gli ultimissimi kit perché sono andati completamente a ruba. Perfetto, quindi promozione per oggi, 23 euro in via Presti Simone numero 3. Io fumo, provate questa esperienza del fumo elettronico. Grazie Andrea. Grazie a voi. A domani, buon pomeriggio e buon lavoro. Ciao, salve, ciao, ciao, grazie. Ciao. Ah, continuiamo con la musica, magari sfumacchiando una bella sigaretta elettronica. Max, che ne pensi? Arriva Rihanna con Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Whoa. Radio Service, tutte le dritte per vivere al meglio la tua estate. L'agenda quotidiana degli spettacoli serali, l'informazione locale, le iniziative turistiche e sportive, dove mangiar bene e dove tirar tardi. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 18 su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. We're up all night to get lucky. CRMP Radio, questa è Radio Service, la tua guida turistica personale per tutto il mese di agosto. Vi terremo compagnia ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. In arrivo canzone italiana del passato. Siamo nel 1989, secondo singolo estratto dall'album Cosa Resterà. E già da qui dovreste aver capito di chi stiamo parlando. Cantautore pugliese, partecipa a diverse edizioni del Festival Bar. Ci siete arrivati? Sono un po' Sarabanda. Raff. Stanotte ti pretendo, io non ho che te. Dietro nessuno mi nascondo, dimmi che lui non c'è. Lo so che fra noi due il più forte sei, sei tu. Ma dammi questa dolce morte, tanto non vivo più. dici di no. Stavolta compromessi non scendo. Va bene, parliamo adesso un poco di viaggi. Radio Service, la tua guida turistica personale. Bene, bene, bene, bene. Ah, adesso ci trasferiamo un po' al nord Europa per parlare di quelli che sono i viaggi consigliati per questo mese e il prossimo mese. Parliamo di nord Europa e parliamo di Irlanda. Vi piace andare in bicicletta? Sì. Allora, vi consigliamo un bel itinerario in bicicletta che vi permetterà, insomma, di assaporare al meglio alcuni dei più bei paesaggi che l'Irlanda può offrire, in modo tale da poter iniziare a mentalmente prepararvi per un posto meraviglioso dal punto di vista della natura, ma anche della gente, insomma, che poi andrete a trovare. Parliamo di Irlanda e parliamo quindi di un viaggio, un tour che ha la durata di 10 giorni. Iniziamo il primo giorno, quindi vi consigliamo l'arrivo a Dublino, trasferimento in albergo, potete stare a valigia, preparate la bicicletta, una bella visita nella città di Dublino. Vi consigliamo tra l'altro di non perdere, insomma, la visita al Trinity College e una bella passeggiata serale al Temple Bar, la zona più mondana di Dublino. Poi tornate in albergo, vi riposate, fate quello che dovete fare. Secondo giorno, trasferimento alla stazione ferroviaria di Houston, partenza con il treno Intercity per Mallow, cambio e proseguimento per Killarney. Poi nel pomeriggio vi trasferite per andare in città, insomma, per andare a noleggiare la bicicletta, e inizia la visita nella cittadina e nei dintorni di Killary, con visita alla St. Mary Cathedral, una bellissima cattedrale, tra l'altro in stile neogotico, il Rose Castle che sorge sul Lough Lynn, ed il monastero di Innsfallen che è su un'isola al centro del medesimo lago, un posto meraviglioso. Poi terzo giorno, ancora natura al 100%, lungo la pista ciclabile in direzione Kenmare. Vi potete addentrare nel Killarney National Park, un parco naturale meraviglioso, ricco insomma di diverse specie di uccelli, di animali. Lì potete fare ovviamente il bird watching. Da lì raggiungete poi le rovine di Matros Abbey, una abbazia fondata nel 1448 e ancora in condizioni praticamente immacolate. Da lì vi addentrate poi nei famosi giardini sempre di questa abbazia, con un sentiero che costeggia il lago fino a ritornare sulla strada principale, quella che poi vi porta a Killarney. Quarto giorno, vi spostate con un percorso di 51 km in bicicletta. Sono tanti, vabbè, non vi preoccupate, non si vanno tutti in bici. In realtà c'è una navetta che vi porta per l'appunto da Kenmare a Castlebar. Da lì potete poi proseguire lungo un'altra pista meravigliosa sul bordo del lago che vi porta fino alle coste del mare, offrendo impareggiabili scorci sulla catena montuosa di McGillivray e sul mare, ovviamente, sull'oceano. Proseguendo, lungo la baia, arriverete poi alla città di Helles, che dista circa, diciamo, 20 km dalla stazione d'arrivo della navetta che porterà voi e la vostra bici alla seconda tappa di questo primo percorso. Poi al quinto giorno, altro posto meraviglioso, parliamo di Glengariff, che è una cittadina veramente molto piccola, molto particolare, prevalentemente composta insomma da gente marinaresca. Un bel villaggio riparato dal mare, che tra l'altro è anche da quelle parti poco profondo e con un microclima molto particolare, quindi generalmente, ecco, diciamo che in Irlanda il mare è freddo, però in questa zona in particolare potete anche pensare di fare un bel bagnetto a mare. Certo, non sarà mai calda come le nostre acque, però insomma per loro è molto caldo. Poi dopo questo bel bagnetto continuate con la vostra bella bicicletta in mezzo a meravigliose camelie, magnolie e rododendri della fantastica cittadina di Glengariff, fino a spostarvi a Gauguin Barra, dista circa 34 km. Per chi insomma va in bicicletta spesso, diciamo che è una passeggiata, anche perché poi diciamo generalmente chi sceglie di fare questo tipo di viaggio e di itinerario già a priori, ecco, sa andare in bicicletta, ha una certa esperienza. È chiaro che se siete alle prime armi con la bici non potete mai pensare di percorrere al giorno una trentina di chilometri. Detto questo, appunto, percorrete quest'altro percorso che si spiega dal Glengariff a Gauguin Barra, circa 34 km, stradine di campagna sterrate, molto particolari all'interno di boschi. Temperatura, c'è da dire, decisamente diversa da quella nostra, soprattutto in questo periodo, molto molto più fresca. Corsi d'acqua limpidi e cristallini, foreste di pini che arrivano praticamente fino al lago in cui poi arriverete, creato dal fiume Lee, che non è il fiume quello dalle botte di Bruce Lee. Ho fatto una battutaccia. Ottavo giorno, arrivo a Killarney, una bella distanza, siamo ai 57 km in bici, però è una regione collinare, quindi non dovreste avere particolari difficoltà. Si pedala a lungo, però sempre in strade di montagna, ogni tanto vi fermate in qualche bel pub, una bella Guinness, bella fresca magari, e poi tutto in discesa, circa 40 km in discesa, abbastanza piacevole, ecco, non è una discesa ripida, quindi potrete arrivare tranquillamente, anche se avete bevuto più di una Guinness, alla prossima tappa, che è Dublino, dal quale poi prenderete il treno e purtroppo tornerete in Italia. Dico purtroppo perché insomma piace a tutti stare in vacanza, soprattutto se si passano delle belle giornate, si torna a lavorare a casa con grosse difficoltà. Facciamo una piccola pausa facciamo una canzone, l'ultima canzone di David Guetta, questa è Play Hard. Hey, said our hustle's work is never through, we making it cause we making moves, the only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin'. Flip that thang thang, girl, stop it. Wanna just bang bang and pop it. While the club crowd are just watch you work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. And it's going fast.

abbiamo i ricordi in bianco e nero come il Game Boy. Un battito, 20 anni sono volati via in un attimo. Ricordi ed emozioni che riaffiorano, però sempre memorie poi rimangono. Dormono, dormono. E non c'è niente da rinnegare, ciò che è stato è tutto giusto così. Però adesso bisogna andare, che di strada ce n'è ancora. Sempre noi a far casino, sempre noi, tutti o nessuno, sempre noi, senza imparare la lezione mai. Sempre noi, senza ragione, sempre noi, solo passione, sempre noi, senza aver spento i nostri sogni mai. Sempre noi, rimasti veri come il wrestling di Antonio Inoki, e non abbiamo lasciato morire i sogni, solo il Tamagotchi. Radio Service, tutte le dritte per vivere al meglio la tua estate. L'agenda quotidiana degli spettacoli serali, l'informazione locale, le iniziative turistiche e sportive, dove mangiar bene e dove tirar tardi. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 18 su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. We're up all night to get lucky. Radio Service, tutte le dritte per vivere al meglio la tua estate. L'agenda quotidiana degli spettacoli serali, l'informazione locale, le iniziative turistiche e sportive, dove mangiar bene e dove tirar tardi. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 18 su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. We're up all night to get lucky. Senso cambiano i pensieri e ti sembra tutto da rifare. Sbagli se ti guardi indietro, punta avanti anche se mezzo metro, c'è sempre una strada per viaggiare. È un inguaribile saperti solo mia, è per come mi guardavi, per i tuoi silenzi seri, per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare, è per quanto mi hai insegnato senza averlo mai saputo, per la voglia che hai di ridere e di sdrammatizzare. Non siamo mai distanti, insieme andiamo avanti, questo amore non si può fermare, è congiunzione astrale. Sei un chiodo nei miei desideri e mi sembra tutto naturale. È un'inguaribile mania saperti solo mia. È per come mi guardavi, per i tuoi silenzi seri, per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare, è per quanto mi hai insegnato senza averlo mai saputo, per la voglia che hai di ridere e di sdrammatizzare. Non siamo mai distanti, insieme andiamo avanti e questo amore non si può fermare, è congiunzione astrale. Successo di NEC, congiunzione astrale su CRMP Radio, Radio Service, la vostra guida personale per vivere l'estate nel modo migliore. Adesso è giunto il momento di darvi qualche altro consiglio per lo shopping. Le dritte per lo shopping. È proprio così, bene bene, siamo in collegamento con Anna da Serio Moda a Cefalù in via Giglio numero 24, un negozio dedicato all'abbigliamento e accessori uomo-donna. Anna, buonasera, buon pomeriggio. Buonasera. Allora Anna, noi iniziamo questa avventura per quest'estate. Sì, sento lontanissimo. Adesso dalla regia ottimizzeranno il tutto. Sì. Iniziamo questa avventura quest'estate dove ci incontreremo virtualmente, telefonicamente ogni pomeriggio per parlare e dare consigli ai nostri ascoltatori su quelle che sono le dritte per vestirsi, per acconciarsi, no? Per la sera d'estate. Quindi certo, ogni pomeriggio ci darete delle dritte di, sui prodotti che si possono acquistare presso la vostra attività in via Giglio, che tra l'altro è di recente apertura, e poter quindi trovare la soluzione ideale. Sai, molte volte le soprattutto voi donne, ecco, ci stanno ore e ore a preparare, a pensare cosa mi metto questa sera. Sì, perché noi donne siamo così. Ecco, e quindi noi vi diamo una mano a tutte le ascoltatrici, ma anche agli ascoltatori, su cosa mettersi questa sera per uscire. Certo. Quindi, proposta del giorno, per quanto riguarda la donna, cosa ci consigliate quest'oggi? Allora, per quanto riguarda la donna, noi possiamo consigliare un vestito a tubino in jersey, e piuttosto scolla, con uno scollo drappeggiato davanti, vedo e non vedo, sai che è piuttosto particolare, sì, di Cristina F, della collezione di Cristina F, abbinato ad un paio di sandali con la zeppa dello stesso colore beige e corallo, e con una borsa beige con piena di borchie. Di sci by Twin Set Simona Barbieri. Senti, quest'anno va molto di moda la borchia, no? Una cosa che prima sembrava tipo molto rock, molto punk, invece adesso è diventata di uso anche per le persone, insomma, che non per forza ascoltano la musica particolare, no? Anche per persone normali, la borchia torna di moda. Sì, non se ne può fare più a meno delle borchie, sono ovunque. ovunque. Senti, invece per l'uomo cosa ci consigli? Pantaloni lunghi, pantaloni corti? Per l'uomo possiamo proporre un bermuda con i tasconi blu di Carmine Ferraro, abbinato a una polo rossa con un colletto molto particolare, sempre di Carmine Ferraro, che è molto bella, molto fresca, con dei particolari nel colletto blu, cioè il colletto blu, una specie di perfilo fiorato. Ah, quindi è una polo fiorata con il colletto blu. Sì, è una polo rossa di tinta. Ah, polo rossa. Che c'ha dei riportini particolari. Quindi molto estiva, perché comunque è stile hawaiano un po', no? Con i fiori. Sì, diciamo che sia classico, ma di tendenza moda. Di tendenza. Bene, insomma, è una soluzione ideale. Scarpe, sandali, scarpe chiuse? Scarpe, io metterei sempre la scarpa da tipo tennis col blu che richiama il pantalone, e la striscia rossa che richiama la polo di Yvette, collezione Yvette. Collezione Yvette. Sono disponibili ovviamente diverse taglie, no? Per questi prodotti. Sì, sicuramente sono disponibili diverse taglie. Ti dirò di più. Questa settimana, se gli amici di CRM si presentano al negozio, in questi abiti pubblicizzati faremo lo sconto del 50%. Oh, che bello. Max, hai sentito? Adesso finiamo il programma e vi veniamo a trovare. Okay. Senti, Anna, poi volevo ricordare anche ai nostri ascoltatori che voi avete anche abbigliamento per le taglie conformate. Sì. Abbiamo cercato di dare più attenzione a queste taglie, perché abbiamo riscontrato che a Cefalù era un pochino mancante la cosa, allora ci siamo occupate di queste ragazze un pochino più formose, diciamo così. Soprattutto dopo questi giorni di festa con la pasta a Teano e la pasta al forno. Vabbè, quello sì, sicuramente. Qualche vestito un po' più largo non fa mai male. No, assolutamente, sempre con stile, con tendente alla novità. Certo. Allora, adesso noi posteremo sul nostro profilo Facebook anche, insomma, il vostro biglietto da visita con tutte le informazioni. Serio Moda lo trovate in via Giglio numero 24 a Cefalù. Fino a che ora siete aperti? Fino alle 8:30. 8:30, quindi andate a trovare, dite che vi manda Radio Service, avrete il 50% di sconto. Sicuramente. Anna, grazie, buon lavoro, ci sentiamo domani. Buon lavoro anche a voi, ci sentiamo domani. Sì, ciao, buon pomeriggio, ciao. Oh, Max, bei pantaloncini stasera, freschi, e andiamo a fare la passeggiata. Va bene. Continua la musica su CRMP Radio con la prossima canzone. Lo sono le Sisters, Only the Horses. Tutte con le S, queste cose. E questo è Radio Service. I know you didn't realize that the city was gone. Tonight, only the horses.

una storia facile. Non ho più voglia di bugie spalmate sulle bocche asciutte. Questa non è la nostra storia semplice. Tra centomila favole si scrive senza lieto fine. Radio Service, tutte le dritte per vivere al meglio la tua estate. L'agenda quotidiana degli spettacoli serali, l'informazione locale, le iniziative turistiche e sportive, dove mangiar bene e dove tirar tardi. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 18 su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. We're up all night to get lucky. Del Queen, questa era Another One Bites the Dust. Adesso parliamo di cucina. Cosa bolle in pentola? È proprio così, cosa bolle in pentola, la nostra rubrica quotidiana dedicata alle ricette. E siamo in collegamento con lo chef Alessio Genchi. Alessio, buonasera. Buonasera, salve a tutti. Buonasera, benvenuto a Radio Service. Allora, grazie. Ristorante Il Normanno, giusto? Sì. In via? In via Vanni numero 9. Numero 9. Sì. Allora, Alessio, questa sera cosa ci proponi di buono? Quale ricetta ci proponi? Ma guarda, io in base alle temperature di questi ultimi giorni consiglierei un primo, magari un risotto. Bene. Noi facciamo un risotto agli agrumi, che c'è un pochettino di pesce, soprattutto emergono gli agrumi, arancia e limone. Buonissimo, molto fresco. Quindi molto siamo sul fresco e a sua volta gustoso grazie al nostro pesce, diciamo, fresco e locale che abbiamo qui a Cefalù. In regia il mio collega Max dice: preparane due piatti per stasera per noi che veniamo. D'accordo, non ci sono problemi. Allora, senti, ci vuoi spiegare, è la ricetta di cui vogliamo parlare o questo è il piatto che proporrai stasera per i clienti del ristorante Il Normanno? Sì, diciamo che è un piatto molto semplice. Facciamo saltare un pochettino di pomodorini in padella con magari con un po' di una base di aglio. Sì. E a sua volta facciamo saltare anche per circa 5 minuti un po' di gamberetti sgusciati. Io metto dei tocchetti di cernia in questo periodo, fresca naturalmente. Sì. Tutto questo per circa 10 minuti, un quarto d'ora massimo, bagnato con un po' di vino bianco e poi appunto metto un po' di succo di arancia e limone, della scorzetta a sua volta delle bucce grattugiata. Ah, fantastico. Ho l'acquolina in bocca. Sì, guarda, è un piatto molto fresco, infatti in questo periodo la sera va proprio a ruba. Senti, invece questa sera i clienti del ristorante Normanno cosa avranno possibilità di gustare? Cosa preparerai di buono? Ma guarda, noi abbiamo un menù abbastanza completo, diciamo, in quanto facciamo sempre le nostre solite ricette tradizionali e regionali, come la pasta con le sarde, tagliatelle alla norma, pasta al pomodoro, le cose più semplici, e a sua volta abbiamo anche un pochettino di cucina sempre regionale, però magari un pochettino più, cercando di fare un po' di non so, delle sofisticazioni, magari elaborando un pochettino i piatti, certo, più semplici, che possono diventare a sua volta un po' più complessi. Certo, certo. Senti, tempi di preparazione per questo piatto, per questo risotto? Ma guarda, ripeto, un quarto d'ora di cottura per la base e poi un altro quarto d'ora per il riso, mantecando tutto assieme, semplicissimo e veloce. Allora, pomodorini, l'occorrente, pomodorini per, diciamo, due persone? Per due persone siamo sui 200 grammi di pomodorini, e poi sempre in base a come vuole, se lo vuole condire è più, certo, abbondante, non è un problema, anche possiamo mettere un 300 grammi di gamberetti, ancora 200 grammi di tocchetti di cernia, e il succo di due arance e un limone. Perfetto, benissimo, grazie Alessio, noi ti ringraziamo, quindi invitiamo i nostri amici ascoltatori di questa sera, le abbiamo consigliato come vestirsi, cosa fare, andate a cenare al ristorante Il Normanno con lo chef Alessio Genchi. Grazie, buon pomeriggio, mille. Buon lavoro. Un saluto a voi tutti, grazie. Ciao Alessio, ciao. Continuiamo con la musica. Adesso sono tornati di recente assieme a fare rock come facevamo all'inizio. Parliamo dell'Elite FIBA, che non è l'Italia finisce a Bari, è l'Italia Firenze via dei Bardi, dove suonavano loro la cantina, gli studi in pratica. Questo è Spirito. Quando mi sveglio cerco i miei sogni e non mi ritrovo più. Non apro gli occhi per chiamarti indietro e rivedere la mia fantasia. Spirito libero, sto contento quando mi parli dentro. Libero, spirito, sto contento quando mi parli dentro. Il mondo è stanco, aspetta in coda. Fratello libero, sei blocca col morto e ruba la fantasia. Prova a smontarlo con un sorriso, è solo ciò che so, il mondo cannibale. La canzone dell'Itfiba che ha dato tra l'altro anche nome all'album. Non so se vi ricordate lui con i capelli lunghi lunghi, beato lui, i piedoni, le manone messe proprio sulla copertina della, sulla cover del CD del 1996. Ne sono passati di anni, sembra ieri. Allora volevo intanto ringraziare e salutare gli amici che ci hanno fatto compagnia. Io fumo in via Generale Presti Simone numero 3. Provate la sigaretta elettronica, Andrea vi aspetta per una prova gratuita. E ancora Serio Moda Cefalù in via Giglio numero 2, abbigliamento e accessori uomo donna con tutte le marche più in voga in questo momento. Troverete Anna e Lorenza. Dite che vi manda Radio Service, 50% di sconto sui prodotti di cui abbiamo parlato oggi all'interno di Dritte per lo Shopping. Adesso continua la musica con lui, personaggio tosto, molto tosto. Parliamo di Robin Williams, Candy. I was there to witness Candice's in a business. She wants the boys to notice her rainbows and her bonus. She was educated but could not count to ten. Now she got lots of different horses by lots of different men. And I say liberate ya sons and daughters. The bush is hot but in the hole there's water. You can get some when they're given. Nothing sacred but Robbie Williams ultimamente in concerto a Roma, grandissimo successo, un po' esibizionista secondo me, si è fatto fare una statua di metallo alta tipo 10 metri sul palco che lo seguiva mentre cantava. È colpa dei Take That secondo me. Parliamo di eventi. Dove tirar tardi? Gli spettacoli, la musica dal vivo. Bene, bene, bene, bene. Allora, intanto parliamo ovviamente di eventi che riguardano la nostra bella Cefalù, in particolare i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore. Oggi giovedì, scusate il caldo. Oggi lunedì 5 agosto. Alle ore 20 il programma prevede in Basilica Cattedrale liturgia lucernale presieduta da Monsignor Vincenzo Manzella. Alle 21.30 sul lungomare Giuseppe Giardina, spettacolo teatrale Fiat Voluntas Dei a cura dell'associazione teatrale L'Armonia. Alle 21.30 sempre in via Porpora invece, slargo antistante liceo linguistico, spettacolo musicale di gruppi storici degli anni 60. Quindi se volete rivivere le emozioni degli anni 60, in fondo al Corso Ruggero, vicino insomma al ristorante Lo Scoglio Ubriaco, troverete musica dal vivo. Poi parleremo di eventi per quanto riguarda domani, che è la giornata clou insomma della festa del Santissimo Salvatore. Domani sera sul lungomare Giuseppe Giardina, spettacolo musicale con Jackson and Friends, che è praticamente il sosia di Michael Jackson, ovvero Rino Puleo, che vi farà compagnia con le canzoni più belle e i balli, insomma le scenografie più belle di Michael Jackson. Il mio amico Max stava facendo qualche mossetta, sai il moonwalker, lo sai fare Max, il moonwalker? Domani mettiamo la telecamera, lo facciamo vedere anche gli amici a casa, va bene. E invece per quanto riguarda Ferragosto, vi invitiamo sul lungomare di Cefalù, io e Max saremo a farvi compagnia lì con un po' di musica e un po' di DJ cefaludesi storici, verranno a suonare a sorpresa, però non vi diciamo i nomi. Quindi per Ferragosto tutti sul lungomare di Cefalù per vivere con noi la notte di Ferragosto. Poi se avete voglia, a due passi c'è il mare, vi mettete il costume e vi fate un bel bagnetto, no? Continuiamo con la musica, ormai mancano pochi minuti alla conclusione di questa prima puntata di Radio Service. La voce della bellissima Elisa con una canzone che tra l'altro ha una collaborazione molto importante, no? Parliamo di un altro autore, cantautore italiano di grandissimo successo, che ha scritto diverse canzoni per altri suoi colleghi. Parliamo di Luciano Ligabue. Quest'anno si è riservato il tour. Sicuramente ci saranno grandi sorprese per la prossima stagione autunnale. Chi lo sa? Gli ostacoli del cuore. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. Sapere quante cose da portare. un principio di energia che mi spinge a pendolare fra il mio dire ed il mio fare. E sentire fa rumore camminare agli ostacoli del cuore. Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme, quante cose che non sai di me, quante cose che non vuoi sapere, quante cose da buttare nel viaggio insieme. Radio Service, tutte le dritte per vivere al meglio la tua estate. L'agenda quotidiana degli spettacoli serali, l'informazione locale, le iniziative turistiche e sportive, dove mangiar bene e dove tirar tardi. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 18 su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. We're up all night to get lucky. Breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. As you're touching my hand, touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. Touching, yeah, touching, gentle, touching, yeah, touching, touching, yeah, touching, gentle, touching, yeah, touching. Gentle breezes as you're touching my hair, touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight. Bob Sinclair, Summer Moonlight. Ah, veramente, luna d'estate. Non c'è cosa migliore di guardarla in spiaggia, in riva al mare, al fresco magari. Vabbè, siamo praticamente arrivati alla conclusione di questo primo appuntamento di Radio Service. Appuntamento domani dalle 15 alle 18 esclusivamente su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede, con Filippo Brancato e il buon Max La Notte in regia. Ciao Max, a domani, buon pomeriggio e buona serata. Salutiamo i nostri sponsor Io Fumo e Serio Moda e ovviamente tutti voi che ci avete tenuto compagnia. Se volete interagite con la nostra pagina, il nostro profilo Facebook Radio Service CRM, postate pure i vostri commenti. Grazie a tutti e buona continuazione sui programmi di CRMP Radio. Bye bye.